piturò piso nendrò. Kako do mring wawayan angra ridu ati. Kawitane mung sembrono jogulino. Rangiro yen bakal lo woke tresno. Nanging duh tibane aku dewe kang namai. Nandang brontong kadung loro sambat-sambat sopo. Rino wengi sing tak puji ojo lali. Janjine muka bisa tak ukemi. Tak ukemi.